disturbato. Che poi io l'antenna della TV mia, loro mi hanno già controllato, non la disturbo, perché hanno controllato la TV mia, che è sopra il palo di quello che disturbo, e chi dove fa l'antenna pratica, non hai compreso? Ma non penso che faccia, pure se c'è un'antenna che si ammazza e così, i canali li vedi, sono digitali, e non entra per niente, non entra. No, chi già entra, gli sparisce lo schermo. Si sparisce, sì, è già per chiudere la denuncia a Cagliari, i Milani gli ha detto, e quindi verranno attorno a controllarmi quando gli arriva tutto da Cagliari, no? E quando viene a controllare, ma c'è pane di tu, marcato ci è, poi lo vedi. E allora no, loro no, devono controllare, a lui devono controllare, perché se l'antenna lui ce l'ha messa male e coso, allora è lui che ci deve aggiustare tutto, e la contravvenzione gira da baga edu, gira a baga. E infatti, e non è quello, loro lo sanno già che io non disturbo, basta che ci vengano qua, comunque se vengono, una volta che ho in mano il coso tutto regolare, il verbale che è tutto regolare, da voi si arrangiano, si chiama Neodini che si fa di giambare antenne, cavolo, perché l'antenna mia io l'ho piazzata lì e non disturbo, perché loro hanno controllato qua, sono saliti con l'analizzatore di spettro, ecco perché io non tocco l'apparecchio, perché se no loro se ne accorgono che è toccato e verranno con quello lì stesso, hanno alzato l'antenna, hanno visto se mandavo spuri o cosa, nulla, a che l'apparecchio era omologato, va via, dre va, cosa vuoi di Cuba? È così, sì, purtroppo vengono, a me mi avevano attaccato all'apparato, mi avevano attaccato un apparecchietto, a vedere quanti vatti sia, usciva 5 watt usciva, no, anzi neanche 5 watt usciva, aveva detto lui, era con l'apparecchietto e usciva neanche 5 watt, ha controllato tutto quanto, poi sono saliti da lui, hanno visto che no, non disturbavo, era il televisore suo, allora già vi abbia chiamato il tecnico, ci aveva fatto cambiare l'antenna e se l'ha messa a posto, io vi raggio di tu, cioè bastava avvisarmi e gliela mettevo a posto io l'antenna. Poi mi sono offerto di fargli l'antenna nuova a mie spese e si sono rifiutati in due. Ah va, si chiamano i Rudenni, così chiamano, perché manco si sbonno in ginocchio gliele faccio, cavolo. No, è così, no, non deve funzionare, perché tu stai pagando la tassa, stai pagando, e quindi no, allora non gliene deve fregare nulla anche se disturbi. No, non è giusto che io disturbi, però loro si devono cambiare l'antenna. Io infatti a talora chiudo per fargliela guardare la televisione, anche se io ho tutta la notte acceso, cazzo, è sempre pavidelli e di televisione non ne vedi nemmi. Devono ringraziare che sono una persona educata. Ah, io mi ho messo la canna da pesca proprio apposta per quello, per non disturbare a nessuno. Infatti non si è mai alimentato nessuno. Con la canna da pesca no, non disturbi a nessuno. E da me viene male, se no io già me la so costruire tutta l'antenna. Solo che da me è una faticaccia, tu quando vieni qua te ne rendi conto come è messa l'antenna mia. Ho capito. Per attaccare dal bugiolo virai, così è. In facciata è. Da voi te ne rendi conto, io dico di ne buon arrivi. Quando la vedi. Cazzo. Così no. Anch'io allora, anch'io c'avevo la mantova uno, però vera 5,5 metri di baro vira. Figurati. Questa esce un metro dal tetto, il tubo è boh. Perché è proprio una cosa. Bah. Sì, tu sapevo di una divisi. Quando li rubi accendi, mi erano in tre passoni manni, mi ho quattro. E ti rubano di capo giunta in occhio, dammi una mano, chi non è buccia di gioco a piazzarla così. Questa è con un tubo da 3 metri ce l'ho messa, non disturba nessuno, l'aveva piazzata Luca, me l'aveva piazzata e poi me l'ha messa lui direttamente su, ho sollevato il tubo e mi ho messo le staffe, ho sentito tutto. E non va radiale, chissà, io è vero. Io l'avevo costruita, deve essere il materiale, ce l'ho in campagna per piazzarla, mi manca solo la canna da pesca. Io l'avevo provata con una canna da pesca che avevo, qua in orizzontale, sviluppateci dal rubacone, funzionava a Roma stessa. È solo che ci vuole la carica, ci vuole per farla a 27, se no ti dà stazionaria, ti dà. Era uguale alla Game Master, quella che avevo io. C'era la carica e tutto, fatta in H155 addirittura l'avevo fatta la carica. Cazzo. Poi c'era la bobina, il condensatore lì, fatta in LG213. Era fatta bene la mia. No, perché non ci ho messo quella? Gli mettevi, la riempivi dentro di coso? Di, come ti si chiama? Che devo... Ma... No, non me la metto, come si chiama, e piove con quel coso lì e reggeva parecchio. E quello il rettame spasso, già lo so. Ma ce l'avevo già piazzata l'antenna io quando l'ho fatta. Infatti penso che quel materiale lì sia in campagna. Ci ha buttato un bel di cose in campagna, a chi no che non vira più il luogo di nuda. Compreso Red. Purtroppo cosa vuoi fare? Con quella lì non fai altro che tirare su e non disturbi a nessuno, non penso che disturbino quella lì. Ma anche se disturbo, si giamba lì l'antenna, io so che si intende, venga a controllarmi. Ho speso i soldi per comprarmi questo apparecchio perché l'altro, guarda, è una cosa, manchi macchina lì ci andrà bene. Boh. Io vedo arredi. Qua già faccio tutto tranquillo io. E sono tranquillo, sono a posto. Ma di che bene? Si muove arredi. E fermo ridi, cosa vuoi ti dire io? Io purtroppo devo avere questo apparato qua. Tutto marcato CE, se mi stavano portando via anche l'alimentatore, meno male che è marcato CE, se no anche quello mi avrebbero portato via. Ma hanno portato via un roadmap che costava 150 euro della Daiwa, perché non era marcato CE, figurati. Ma scusa, io posso dire quello che mi pare mi piace, mi... Allora non te lo possono sequestrare. E lo dici tu. Chi su caccia appena attaccata all'antenna ti si rubucciano, non ti preoccupare. Cosa vuoi di me? Non è così, no, mica è cambiata la legge, Ettore. Se non è marcato CE, l'apparecchio, il mio era omologato, mi, alla vecchia legge, era omologato e me l'hanno portato via. Quindi non è solo la multa che ho pagato, oh, addirittura sono venuti due volte, sono giunti. Ma cosa, non risultava pagata la multa, quindi sono giunti, se ne è fatto la fotografia di un bollettino che l'avevo pagata e se ne sono andati. Hai capito com'è il discorso? Se non è marcato CE non ne puoi tenere, se lo trovano attaccato all'antenna te lo portano via. Allora anche il microfono si devono portare via, perché il microfono non è marcato CE. Te lo portano via, no, a me non me l'hanno toccato il microfono proprio perché è marcato CE, capito? Non mi hanno detto, manco un bappare un microfono, paghicchio. Io invece non è marcato. Se non è marcato non lo puoi tenere. L'altro che ho in scatola, nuovo, mi, ma va una bitica che è in scatola, comprato nuovo e non l'ho mai usato, ed è marcato CE anche l'altro, perché ne ho due di MB più 4 io, e quello è marcato CE lo stesso. Brecche. Avanti. Scusate, sono bracco. No, volevo chiedere all'amico, scusa, ma se uno ha degli apparecchi che non sono addirittura del che ti posso dire, del 1970 per esempio, 75, non c'era il Marco Scia allora. No, è uscita dopo che ho pagato la concessione io, 2 anni fa la legge, è uscita. Però i radioamatori non sono tenuti a rispettare quelle norme, perché si presuppone che il radioamatore se li possa costruire gli apparecchi. E per noi ci vi solo. Capito l'hai, Giovanni? Jackson, ho capito. Ascolta un attimino solo, eh. Un attimo solo che mi segno. Dimmi innanzitutto chi sei. Natalino Alfa 1. L'altro invece? L'altro amico. Oh, non risponde, vabbè dai. Sto dicendo chi è l'altro. Attenzione, ma sto uscendo o no? Sì che stai uscendo, Giovanni. Ma infatti ti ho chiesto chi è l'altro amico. Tore, si chiama Tore l'altro amico. Tore. Ecco, no, la discussione era proprio questa, no? A parte il fatto, io sto dicendo, indipendentemente che uno è radioamatore o no, se uno ha apparecchi, diciamo, ammettiamo che fosse CB, se ha apparecchi che ce li ha 50 anni, 30 anni fa, cosa c'entra il marchio CE? Per noi CB c'entra, se li trovano attaccati all'antenna te li portano via. Addirittura, per contumio io un abuso, ma veramente uno si attacca, si mette un avvocato e si attacca l'altro anno, incredibile, caspita, quello che stai dicendo, eppure magari se ti portano via l'apparecchio, il colmo, eh. Asco, qualche giorno ci troviamo da Roberto e porto il verbale, e te lo faccio leggere, io non ne dico cavolate, Giovanni, c'è il verbale della polizia e della perché sono venuti con la polizia, loro non possono entrare senza avere la polizia, perché loro sono solo tecnici e quindi non... sono venuti con la polizia e hanno stilato il verbale sia uno che l'altro. Quindi mi stavano portando via l'alimentatore, meno male che marcato CE, se no mi avrebbero portato anche via quello. Un Rosmetro Daiwa da 150 euro mi hanno portato via, l'apparecchio non valeva niente, era uno di quelli omologati che era poco più grande di una scatola di fiammiferi, figurati. Dell'apparecchio non mi dispiace, mi dispiace per quel Rosmetro Daiwa ad aghi incrociati che era bellissimo, grande poi. Me lo immagino. Ah, quindi, ma naturalmente per il relatore, io entro raramente in CB per fare qualche chiacchierata con qualche amico, quindi il rianimatore non c'entra nulla con gli apparecchi praticamente, quindi un rianimatore non glielo posso sequestrare secondo te? No, non penso, no, perché voi avete la prerogativa che uno se li possa anche costruire, quindi la marca CE non c'entra niente. Che adesso io ho un ricevitore Yaesu qua, piccolino, di quelli portatili, però è marcato CE anche quello, se no non l'avrei tenuto qua, perché mi hanno detto che quando vengono a controllarmi non devono trovare niente, e niente trovano, trovano l'apparecchio, questo qui mi sono comprato nuovo, omologato, la concessione l'ho pagata, ed è anche il Rosmetro è marcato CE. Quindi non mi boniva nulla da quel lato lì. Lo so, ascolta. Io diciamo qua c'ho un che non è marcato, c'è un apparecchio diciamo quasi professionale, è degli anni appunto, come ricordo, anni 90, anni 90, no? E quindi diciamo, a parte il fatto che sono radioamatore, ma se fossi CB me lo sequestrerebbe allora, se colpa ne ho io se ho comprato un apparecchio con un marcato c'è tanti anni fa. Ascolta, è logico che te lo sequestrano se te lo trovano attaccato all'antenna e nella banda della 27. Tu con quell'apparecchio non ci puoi parlare nella banda della 27 perché sei radioamatore. Capito? Cos'è l'inghippo? Se invece a te ti trovano un apparecchio omologato, CE, non ti possono dire nulla. Ho capito, altre complicazioni, non sanno a chi rendere la vita difficile, caspita, stanno rendendo la vita difficile proprio alla gente, diciamo, onesta, alla gente che sta lavorando, tutti gli altri, quelli che sono abusivi al 100%, che non hanno magari, che sono spiantati, che non hanno soldi, fanno finta di non avere nulla, non ne toccano nulla, stai tranquillo. Eppure sono cose serie, guarda, io pensavo di essere in regola perché c'era la targhetta dietro di omologazione di questo apparato. Ma c'ho l'apparato omologato e sono in regola, invece anche la multa mi hanno messo, non solo d'altro, oltre a avermi sequestrato tutto. Infatti sono stato più di un anno che non entravo, mi ho rifatto la concessione nuova, mi ho comprato l'apparato omologato, c'è. C'ho due Rosmet che sono omologati CE lo stesso e questo ricevitore Iaesu portatile, che poi non senti nulla, non si sente più nulla, sono passati tutto in digitale, ma... Ok, sto uscendo un apparecchio CB che mi ha dato Roberto e sia ben chiaro. E infatti... Se è marcato CE tu non hai niente da temere per parlare in CB, capito? Perché ci sono le regole anche per voi, capito? Con tutto fustigato ci va quello. Come? Con tutto fustigato a volte. E no, non di la faula. Lo so, ciao Giovanni. Ciao, comunque come radio non ti sto copiando bene a te. Come vai, strano? Ho una voce un po' gracidante, da. Vabbè che io sono mezzo sordo, ma... Appunto, quindi... Ti faccio pensare quelle capsule che spiazzano microfoniche di una volta. Quello volevo vecchio. Va bene, sono entrato perché mi interessava questa discussione che avevi fatto. Io sto, in questo momento sto lavorando, sto finendo un quadro se riesco. E vi ringrazio per mi fa sentare, ciao Marco, ciao Tore, eventualmente altri TB che sono entrati in questo momento. Ciao, ciao. Ciao Giova, buon Querix alle prossime, da. Riprendi tu. Ma Tore non v'è. Riprendi Pomponius. Sono tutti spariti, so. Hai capito bello bene, sono tutti spariti. Perché sono cuomani. Lo so, non dimmi niente, lo sai. È la malattia, capito, di questo periodo, sono tutti neurotici. Quindi tutti quanti vanno dal medico e sono malati. Ma questo microfono come sta uscendo con questo apparato, Antonè? Perché a manetta, però non è che amplifichi già sai, Benzo, è normale, non è modificato, anche se quello vecchio. No, già c'è bene, la verità. E allora da che mussi? Cazzo, 3 watt da il Superstar 3009, c'è da ridere. Sì, già lo sai come fa, non c'è bisogno di nulla, già lo sai che tu. Eva, no, non si vodete, non tocchi se. Quanto già ci può arrivare, là, a io non rompere. 4 più che 5, io. No, lo lascio così, Antonio, non lo tocco. A parte che è nuovo, se no perdo la garanzia se lo apro, capito? Salino. Oi. C'è il nostro adesso. Emmo, avassi, però sei più bassino. E perché sto usando l'Inter che sto usando, che tu sei sudato, boh, non comprendo una cosa, che mi sa se c'è bruciato un fusibile. Ehi, a mai da lo sai che sia bruciato un fusibile, do. Sei sudato, ma mi era già menegito, se non andare a rifondire, boom, sei sudato tutto. Infatti ti stava chiamando Giovanni, ma vabbè. A vai da che non sia bruciato il fusibile, è vero. Dopo me lo controllo, c'è dietro, dietro la tavola, me lo controllo. Cappa, se sei studiato così all'improvviso. Boh, è da Gerusalemme. Certo, le funzioni deve Penso che ho toccato il cavetto, ho toccato, non me ne sono gabizzato e l'ho spostato, deve essere sempre usato fusibile. Ciao Otto, buonasera. Ciao Antonello. Tu sì che mi cambi il nervo. Servo ti cambio. No, mi calmi, no, ti cambio. Cambio il nervo. Mi calmi, calmi. Mi calmi, calmedia, calmedia. Insomma, non ti comprendo con questo microfono che fa di è l'unico che mi è rimasto la verità, il microfono. Questo qua, gli altri sono tutti dati l'altro giorno, malachia, la parte all'altra, e mi è passato un tubo. Sì, avete parlato in due. Chi Sant'Antonio è poco mani a virumi. Cazzo. Tutti questi mignadui. Sicuro. Quello vedi, quante volte non ti si capisce. Adesso avete parlato in due, avete parlato tu e Natalino. Avanti Natalino. Sì, avanti, oi oi. Con questo Antonello io non ne capisco più nulla. Sicuro. A con Camudu da Ponadu. Non ti voglio rispondere al resto. Però non vale, scusa, tu ti sei pigliato l'altro e io sono andato con quel lavandino. Se vuoi ti regalo il polmar, hanno laiato, mamma mia. Ne l'ho tolto pure in quel polmar, l'ho rimesso nella scatola. Gesù Cristo mio che apparato. Guarda, se me lo regalo me lo tengo. Dipende da te quello. Ma è cosa cavolo di mi fai un apparecchio del genere che non si può alzare manco la LC? E secondo te cosa uso? Questo qua? Non sei pazzo, guarda. Io sono così liscio e così attaccato, guarda un po'. Ma quello lì stai usando? No, sto usando l'87, lo sai, Dalan. Ah, capo, credo che ritratten di ghisso. Perché esce più basso di questo addirittura, quello lì. Prima te si batte, deve essere bugiardo quell'apparecchio del tutto. Guarda, c'è il microfono 2000, esce veramente bene la vetta. Ma io penso manco in macchina va bene quello. Già esce bene, non ti preoccupare, adesso te lo provo e vediamo come esce, là, 2 minuti. Se puoi lanciarlo. E cappa. Ce l'ha uguale al mio l'apparecchio, sto omologato. Certo, ma tu di radio esci. È un lavandino, è detto un lavandino, però bisogna cercare un po' di roba da modificare più che altro, va. Ehi, lo so, ti sto dicendo che c'è più basso di questo qui e lì ci va 3 watt, mica, cosa ti credi che vaglia? Il giorno che vieni qua lo vedi a vedere, ci attacca il watt, ma e ti dice, vero è, 3 watt. Io te lo salgo a 5, non ti preoccupare, aspetta, attacco l'altro. Ehi, attacca, russi, me lo vanti in lì, boh. Che scena è, io non avevo educato del coso, infatti non ne docco, normale lo lascio. È vero, ma te si sei nuovo, se io rabbro per esempio, ma apri la radio solo, perdo la garanzia e poi se ne accorgono che è toccato, che salgono con l'analizzatore di spettro qua. Ce l'hanno portatile, no? Attani l'antenna telescopica e a Maidana vedi in tante frequenze l'hanno provato, mi. Per vedere se manda spugne. Che mi hanno controllato tutto. I canali Rai hanno controllato, tu mi guardi qua anche, lì, pure i canali Mediaset, la giocato vedi che io non li posso usare dal televisore mio. Ed è mi rubato di Ghidu. Perché l'antenna TV io non la potevo mettere sul tetto mio che è tutto rotto. Se salgo sul tetto e rompo qualcosa mi fanno pagare tutto il tetto, mia madre accuglia. niente, andiamo e andiamo, babbo. No, io nelle cose qua, amici, per fare cose, modificarlo, questo devi tagliare un ponticello e basta. E ce ne va su di a 5 watt e più se ne va alto di canali anche. Qua c'è un jumper addirittura, tu lo sposti dal 2 al 3 e c'hai tutti i canali e tutte le bande, figurati. Poi si possono alzare i watt, si può aprire la modulazione della M, si può fare tutto, solo che se fai così non è più omologato. Sino che ando cicciurivandi io, non funziona. Infatti. Deve fare il ponticello dentro, c'è da fare. No, c'è un jumper come quelli che ci sono nei computer, mi. Lo sposti dal 2 e lo metti al 3. E tu c'hai tutti i canali. Dopo ci sono i trimmer da girare per aumentare i watt. Dopo c'è per aumentare la modulazione AM. C'è tutto. Solo che se tu lo apri perdi la garanzia che non vuoi. Sì, è così, infatti. Se no io di questo ce n'ho un altro anno ancora. E poi finisce la garanzia. Ho capito. Ma io non lo tocco, anche perché so che devono venire a controllarmi. Cosa lo tocca a fare? Così mi lascia panire. Tu caddu, magari manda spurie se gli apri la modulazione, invece no, lo lascio così. Infatti, me lo lascio così e tutto. Infatti, manco io lo tocco questo. Faccio così com'è, 40 canali e 40 canali modula, boh. E infatti conviene, così a Roma sei tranquillo. Ma fate, no, ai tempi d'oggi. Mi raggio bigliardo, mi raggio comparato nuovo a chi tu, guarda, va via un microfonino, cazzo, piccolo piccolo che non riesci neanche a prenderlo in mano. Qua, quando vieni di Rovozzo Vidi, ed è bellino come apparato, solo che guarda, un piento. Lo so, lo conosco, ho visto come c'ha un microfono piccolino piccolino. Proprio così. Cambia i canali dal microfono anche. C'ha lo squarcio automatico, infatti va attacca otto, come te chi su di Rubimbo. È una cosa impossibile, vabbè, meglio che c'è che nulla. Infatti c'ho l'M93 io, e c'ha l'attacco a 8 stesso, l'altro MB+4 e va nell'attacco a 8 proprio baghissa parecchio, però Gesù Cristo mio, non amplifica nulla, è tutto chiuso, è fatto apposta. Non ce n'è coso di ALC, non ce n'è trimmer, no. Okay. Io sono bruciato, mi sa parecchio. Come ha detto Marco, cavolo. €70 nuovo costa. Chi me ne viene 50, che nuovo l'apparecchio, in garanzia. Ed è marcato C pure. Boh, poi facciamo alla BDSV. Ciao, non mi ricordo il nome adesso. Sono un po' smemorato stasera. Ciao Antu, cazzo, Uia, andiamo via, andiamo. Vabbè dai, io che devo uscire. Ci sentiamo Natalia, alle prossime. Ciao Antu, stammi bene, e a tutti quanti gli altri che sono all'ascolto. Ok, ciao a tutti. Ciao Antu, buona questa greca. Allora, adesso io ne approfitto a farmi la barba. Tanto se Antonio sta facendo cosa, ne approfitto adesso e mi faccio la barba. Ok. Vabbè, Antonio. Mi ascolti? Sì, a buon po'. Come sto facendo il radio, 3456, sto facendo con quel lavandino. Destra X40 di cazzo e di vabbè, già mi hai capito. È un po' difficile c'è. Vabbè, perché c'ho il volume alto della tapparacchina. La verità, ma adesso va bene comunque. Sì, Antonio, ci sei? Natalia, ora. Ciao Riccardo. Frank sul canale 10. Avanti, buonasera. Ciao Alessio, buonasera a tutti, dai, non so che ci sia, sto accendendo in questo a secondo. Ciao Gianni, buonasera, mi hai ascoltato. Sono dal barattino, non lo sai, quello riguarda l'elettrico di Natalino. Bello. Va bene, funziona bene, sì. Non ha problemi. Ripete troppo l'eco però, abbassa appena l'eco. Va bene, non ti preoccupare di quello. L'importante è che la radio sia buona, è solo quello. Che sia amplificata appena e basta. Non ti salto. K, che microfono stai usando insieme a quell'apparato? Il DM1000. E allora te lo regolo io. Mettilo tra il 3 e il 4, tutti e due, ed è regolato così. Prova. No, va bene. Ho già fatto la prova io. Si sente la voce dentro l'altoparlante e quindi è un casino. Fischia, capito? Quindi lasciando così com'è, l'ho fatto adesso. Ok, grazie, ringrazio. 5 secondi di quell'X per me e ci siamo fra poco. Ma questo tuo è, o lo stai aggiustando? Ho capito, sto aggiustando? Ho detto il tuo o lo stai aggiustando? No, è mio, questo qua. Questo è quello che ho fatto io. 89 euro, 9 euro. Con microfono originale. Poi gli ho messo questo qua, è l'unico che va bene. E quindi lo sto usando così com'è. L'hai comprato a seconda mano? Dimmi già perché è la pace. No, perché mi sembra poco 89 euro, ma 189. 89 più ci sono 23 euro di spedizione, sono 98 in tutto. Ma questo qui è quello piccolino omologato o quello digitale? Fammi capire, non ho capito. Quello omologato digitale, è bravo, ci si è arrivato. C'ha il frequenzimetro a celestino, ci sono le frequenze e anche c'ha le memorie. È pagato poco, mi hai. So che l'ho pagato poco, il problema è il microfono suo originale che non va bene, quindi questo è tipo l'unico microfono che va bene per questo tipo di apparato, il DM1000 e basta, non ce ne ha, o al limite del 100. Già va bene, se riesci a togliere appena di amplificazione perché ripete, capito? Appena un pelino lì dove si studia. Vabbè, lascio così, se la pia è Napoli, non è che devo stare a svegliare. Me lo tengo così come macchina e basta. Fai tu male, non c'è problema. Vedi tu come preferisci, dai. Andare, comunque la radio è bella. Ringrazio. Ok, a frappe, sto facendo alcune regolazioni. Ma fra poco, dai. Ciao. Aspetta con collina, vediamo come funziona. Due minuti. Caraga, ma sono qua. Chi c'è su questo canile? Tutti scomparsi, sono di lampade al vento, cazzo. Tutti scomparsi sono. Bam. Avanti questo cagnolino, avanti. Nel canile. Bau. Capito. Ciao Fabio. E allora? Ciao Gianni. Dove sei? A Domo? Ehi, sono in Roma con un apparecchio che ho messo la faccia 30 anni fa. E che apparecchio è? È un autoradio Alpine. Ah. Io ho sempre avuto Alpine, sempre. Addirittura io ho un Alpine, ho passato in quattro macchine. riceve va più bene, pensavo fosse un'antenna, ne ho cambiato 3 o 4 di antenne, non riceveva lo stesso. Un giorno sai cosa ho fatto? Mi sono rotto le scatole e gli ho buttato il vestito della macchina e me l'ho comprato nuovo, sempre al pai. Ascolti, che anno era questo che aveva smesso di ricevere? Te lo ricordi che l'hanno mai comprato? No, non lo ricordo. Mi ricordo che l'avevo preso e... Hai visto quello che fa gli impianti del gas? Cos'è? Via Civitavecchia? No, non è via Civitavecchia, via... E vabbè, comunque c'è uno che fa gli impianti del gas e fa anche gli impianti esterni, ce l'è presente? No, al momento no, non mi ricordo neanche, forse sì, roba di tanti anni fa, mi ricordavo di qualcuno, anche perché di solito gli impianti, per me la mia cricca è tutta una un'orgia di clientela, li facevo io, faccio gli altri, ma quelli cagavo. Aspetta un secondo, scusami, come sto scendo adesso, aspetta un secondo, Così, aspetta un attimo. Aspetta, ti fa vedere, ti fa sentire il nuovo apparecchio. Ah, ce l'ho fatto. Bella Lu, com'è lo Smith? No, questo è 3009, lo Smith è da 25. Che torna la radio che va. Che cosa è? L'MV più 5 li ha attaccati. A chi io? Il 4. L'MV più 4? Via, si sente bene? Mezzo gai. Come stai con si sente? Uguale. È meglio così. C'è lui che non sta bene già. Non sta bene. La diarrea, vomiti, ecco la rete, non mi ha accompagnato. Poi c'è quel prolasso, piscia di continuo. Un casino, non sta di bene. C'è il cane che sta molto molto male. Adesso vediamo. Cioè è inutile che lui mi fa fare queste visite che poi magari sono inutili. Se c'è da fare la puntura, si fa la puntura con la notte per farla soffrire. Oh Luca, portala subito perché poi c'è la gastroenterite quella lì. Vomiti e diarrea e gastroenterite, vai tranquillo, che io un po' me ne intendo, vai a farlo controllare subito. Ma se ho chiamato le veterinarie, come non me l'ha detto lui, me lo stai dicendo tu? E cosa ti ha detto lui? Ha detto che potrebbe essere da queste pastiglie che gli ha dato lui, queste antifiammatorie per quanto riguarda la trovasso, che riesce fuori e niente, può dipendere da quello, capito? Insomma avrebbe detto che la gastroenterite gliela avrei portata, ma mi ha detto che sicuramente è dovuto a quello, da quelle pastiglie che gli ha dato, non si sa. Ma vabbè, ok. Allora, sono entrato. Ma ci metto lingua, però i sintomi sono della gastroenterite. Mi ascolti, sì, Gianni? Sì, Alessio, che ti ascolto anche bene. E allora ti vuoi... una bella in pratica sarebbe bella ma di fatto sarebbe brutta quell'apparecchio che ho comprato io in pratica non pilota manco lineare non so altro figurati tu esce mezzo watt KK va bene vabbè sempre abbassare anche sono in compagnia di Fabio e anche di Luca Manicomio. Li ho sentiti, non ti preoccupare. Comunque sia, te lo sto dicendo. Fate la prova con il watt, metto quasi un watt, tira fuori l'apparecchio monolato, quello che ho comprato io. Quindi non serve un tubo. Un watt. Quasi un watt, manco il coso pilota, te lo sto dicendo. Non sai, manco il watt, metto. E come mai? Io pensavo che invece di più. Ecco perché andava di meno. Me lo sono immaginato, c'è qualcosa di strano, la verità. Perché c'è qualcosa di strano. Comunque sia, la pilota un tubo. Ma avanti Fabio. Capo, ho trovato il danno, roba da mastica. Gianni, a colpi di Alpine, sono mio anch'io. Una vita di Alpine, tranne una pagina che sinceramente al tempo la passava l'Alpine, la passava e come. Io li ho abbandonati adesso che ho comprato la macchina nuova che c'è lo stereo inserito nel monitor, e quindi cosa faccio? Ho detto gli avevo quello per mettere l'Alpine, l'ho regalato, l'ultimo che ho comprato era nuovo, l'ho regalato a un amico e se l'ha messo in macchina che non ne aveva. E l'abbiamo piazzato in macchina sua. Senta, io nella Travis avevo lì 900S, 1000 euro autoradio. Guardi, navigatore, tutto, cioè tutto l'immaginabile, capito? Quando ho preso questa mi sono ritrovato il display col menu della manutenzione, per i cristalli, i check, il controllo del climatizzatore, tutto su un monitor. Mi sono informato, dovevo spendere 1500 euro per cambiare il monitor e metterlo nell'Alpine per avere un suono che era praticamente lo stesso. Ho desistito. E così ho fatto io, la stessa cosa. E vabbè, dai, suonano bene adesso le macchine, non gli puoi dire nulla, mettono delle belle casse e adesso vanno bene. Cazzo, prima facevi gli impianti perché anche se c'erano le casse erano matracche di cartone, adesso le suonano bene. No, l'impianto sinceramente, vabbè, io sono un audiofilo, perciò già, è inutile sbattersi in macchina, è inutile. L'impianto non mi dava la nausea, qualche volta lo spegnevo perché proprio non ne potevo. Poi ho avuto un problema alle centralizzate, all'Audi mi hanno detto un sacco di cazzate, perciò ho aperto io. Ho aperto, ho visto gli altoparlanti, ho visto l'impianto, quella, ho detto aspetta un attimino che mettiamo un crossover come dico io, adesso lo ribilanciamo come dico io. E guarda, una delle poche volte che conti alla mano, fai le cose, fai il compitino proprio con le formulette eccetera, ti metti lì a calcolare tutto e l'impianto è volato, adesso è tutta un'altra cosa. Se c'è di macchina mia, dopo un po' inizia a cercare amplificatori, subwoofer, capito? E non c'è niente. Sì, già va bene, dai, vabbè, uno che si arrangia se lo fa, non è che... Hai mai bucato la cappotta di una macchina? Scappa, però con carrozziere, perché la macchina che bucavo al tempo li mettevo i telefonini ed erano tutte Mercedes di classe alta, BMW, non ti dico, Maserati, Ferrari, Bugatti, i soldi ce li avevano loro, che io potevo spendere 6 milioni per il cellulare in macchina, sempre da carrozziere quando faccio buco. Vabbè, me l'aveva fatto nella stessa Sovego, ma aveva fatto quello di Pudiche, non so se tu sai dove, che fa gli impianti, ma aveva fatto quello, l'aveva fatto perfetto, le aveva messo anche un'anticorrosione e tutto quanto, poi il filo me l'aveva tutto quanto attorcigliato con questo nastro, praticamente che aveva una gomma a piuma per non far rumore il filo. I cablaggi vanno sempre coi pentati, sempre, perché prendi un posto, prendi vibrazioni e dentro il cruscotto, dentro la cappotta inizi a sentire tun tun tun, cioè prova la macchina, queste cose non le sopporto, capito? Ogni volta che faccio cablaggi puntuale vanno coi pentati con un nastro gommato o con un autoestinguente che comunque non sbatte, oppure ci sono i nastri di tela che sono quelli che usano le case automobilistiche, è presente? Yami Luca l'ha sentito l'impianto mio in macchina. È l'impianto originale della FIA? Adesso sì, ma nell'altra macchina c'avevo tutto Hertz, c'avevo Twitter, woofer, subwoofer, midrash e praticamente l'amplificatore era il sub e mi ha detto che forse non da pescare, che l'ho bucato io la cala da pesca, non penso brutto, l'ho detto, l'ha aperto, l'ha controllato, ho detto secondo te questo che cala da pesca, si vede tutte le rigature come l'ha crepato e me l'ha cambiato gratis, non me l'ha fatto pagare. Allora nell'altra macchina avevo il 900 come ponte, poi avevo 4 amplificatori, però quello più bellino che suonava meglio, strano ma vero perché Sony non mi è mai piaciuta in macchina tranne qualche modello, ne ho provato vari, quello che suonava meglio in assoluto era l'Explode. due relazioni, ma alta scientifico, cioè 2000, quasi 2000 euro di applicatore, crossover elettronico integrato, tanto di finestrella, di sportellino, plexiglass per l'apertura, controllo dei livelli, tagli di frequenza, ponticellabile, ci ho portato due cavi lì all'alimentato che erano, beh, quanto il mignolo, si può immaginare. Anche perché quella macchina c'erano 500 euro di cavi ed era in multi amplificazione, perciò davanti le sezioni erano amplificate separatamente. Davanti avevo JBL, dietro avevo SES e poi Infinity. Però il primo sub che ho messo così al volo era un Boss, che devo dire che mi sono dovuto fermare perché mi stava prendendo un po' con l'altoparlante. A me faceva vibrare il vetro di dietro quando lo alzavo troppo. Il sub io ce l'avevo dietro. Immaginati tu, il cofano di una Station Vego, della Station Vego ce l'avevo dietro io, ed era attaccato con lo strip strap. Io ho tolto quel Boss, che era un sub che reggeva 400 watt RMS, perché ne avevo uno più grande, ho detto fanculo al Boss, l'ho fatto cambiare e l'ho venduto, e ci ho messo l'Infinity 1020. Allora, se tu scrivi 1020 tutto attaccato, viene fuori 1020, che era la potenza di quel sub, però gli davo solo 300 watt RMS, capito? Penso un pochino cosa riusciva in macchina mia, però il discorso era che io non l'avevo tarato per sparare, per me doveva essere un impianto di qualità, cioè ti sedevi in macchina e ascoltavi veramente pulito, solo che in una macchina, già in una macchina ci sono i vetri, con i vetri non si può mai fare niente di buono. Lo so, vibra, c'è poco da fare. Vabbè, comunque già si sente quando la musica è pulita, quando è una matraca, come la chiamo io. A me non mi piace la musica matraca, mi chiede bram bram bram bram, mamma mia. Avanti. Dimmi tutto. Sono venuto da quel baracchino a vetta, Non pensavo che era così. Non prodotto manco il lineare, non sono l'altro, quindi adesso io le mando un vendietto. Ascolta, ma infatti mi sembrava poco la spesa, ma non è che si può aumentare lì da almeno uno? No, non tocco nemmeno, non sono l'altro, no. Le mando un vendietto, se la piglia in culo. Mi faccio restituire i soldi indietro e se la tengono in culo a un certo punto. Perché non va bene così. Mi sono preso per il culo a un certo punto. Non ho fatto niente. Ma dice il menu che si può regolare tutto, chiedi a Natalino. C'è il menu e puoi regolare tutto quanto dal menu. Si fa tutto dal menu, non devi toccare nulla dentro. Si fa tutto dal menu. Questi apparecchi nuovi che sono usciti. Si fa tutto da lì, dal menu. Puoi regolare il bip, puoi regolare l'amplificazione, puoi regolare tutto dal menu si fa. Bisogna che ti informi prima di essere così abbattuto lì. Bisogna chiedere, basta chiedere a Natalino a vedere cosa ha fatto. Guarda, se io compro un apparecchio, giusto? Mi sembra logico. Vedrai 4 watt, il discorso è quello lì. Però che non pilota manco il lineare mezzo watt, quindi a un certo punto cosa devo fare? Me lo devo regolare io? No. Però ce lo mando loro indietro, se la piglia in culo, faccio restituire i soldi e poi magari mi piglio qualche cosa a un certo punto. A meno che non vado l'altro, il discorso è quello. Vedi tu, Ali, non so cosa dirti. Però prima chiedi, cavolo, se magari esce bene cosa hai fatto un affare, però il prezzo mi sembrava troppo basso, capito? Troppo basso il prezzo. Erano pagato oltre 100 euro gli altri. 89 è il basso il prezzo. 89, cioè 98, 89, 98 in tutto, la verità, è quello che è, che mi è costato a me, il 23 di spedizione. No, riprendi tu, il mio comunque è l'armai, il primo che ho avuto era quello che si illuminavano tutti i tasti delle memorie in verde, ce l'ha presente? Sì, ce l'ho presente. comunque sia, no, non mi sta bene a me, cioè che si è mezzo fatto l'apparecchio, non va bene. A un certo punto gli ho detto indietro e vaffanculo. È nato per 4 watt, c'è il prescritto, non per mezzo watt, il discorso è quello lì. Oh, Fabio, ripeto. A tra un po'. E ciao, lei ne sta sempre. Sì, ciao Fabio. Inculato sono rimasto, veramente inculato. Cazzo, non me l'aspettavo una cosa del genere, guarda. Non mi immaginavo una cosa del genere, guarda. Deluso, deluso, ma veramente deluso di questo apparecchio qua. Ah, fa ancora a me che ho speso 98 euro, cazzo, al volo, cazzo. Io trovo indietro se la via in culo, ecco. Staccatevelo in culo e basta, a un certo punto. Che marca è quello lì, Alessio? Ah, la 40 Pro. Aspetta che lo scrivo, che me lo cerco a vedere come. No, è bellino, la verità è bellino, però a un certo punto, scusa, è nuovo nuovo, che mi trovato, allora, Polman ZX40 Pro, per esattezza. Che sono preso un'inculata, guarda, che non è vero tutto. Mi dà un bel balle più che altro. Se lo mando indietro, se la via in culo, mi interessa niente. Mi faccio istruire sull'indietro e se la tengo in culo, loro e il coso. Ah, c'è un po' davanti, vediamo un po' che cosa dice. 89 euro, hai ragione, cosa? 89 euro. Non è brutto, non è brutto, però non è il genere che facciamo, a me piacciono più quelli non digitali ma analogici. Bello, bello, la verità, il problema è che esce mezzo watt, forse magari è da programmare quello che è, ma cioè, c'è scritto 4 watt, dammelo 4 watt, non è che me lo dai 0,5, il discorso è quello. Esce meglio questo, la verità, esce veramente meglio questo. Ho pagato 4 watt, c'è scritto 4 watt, lì praticamente ci avrà sicuramente qualche difetto quello lì, magari è difettoso quello, perché qua dice essendo omologato esce con 4 watt. Come con l'altra io, guarda, che non usciva nulla. E guarda quello suo, mi sono preciso, non cambia nulla, è nuovo nuovo. Quindi hai ragione tu, non è quello che dico io, è nominato per 4 watt, e 4 watt te lo devi negare, non devi uscire con un watt, ma sicuro che non è un watt, ma è troppo. Siccome c'è l'impostazione, hai capito? Magari io non ho fatto l'impostazione per impostarlo per l'Italia, il discorso è quello, perché non l'ho fatto io per l'Italia, ho preso, mi è arrivato così e non l'ho fatto per l'Italia, hai capito? E appunto, guarda a vedere prima di essere deluso, magari c'è l'impostazione per l'Italia, c'è con 4 watt, quello lì magari è un'impostazione tipo Germania, roba genere, che escono di solito in FM, loro hanno pochi watt in AM e molti in FM. E vabbè, adesso vediamo un po' cosa vuoi dire. Se no, se la bisogna in culo, lo restituiscono un vendietto. Aggiungo soldi e mi piglio l'altro. Bisogna vedere cosa ti dicono loro, dicono che forse è vero. Non hanno messo l'impostazione, te lo rimanderai e dice, guarda, adesso abbiamo impostato bene, esce con 4 watt e te lo dovrai mandare. Vediamo un po'. Adesso vediamo. Ascolta, non puoi chiamare dove l'hai preso, non ce l'hai il numero di telefono. Adesso in questo momento non ce l'ho, ma comunque non mi piace il numero di telefono, ma io lo chiedo, dico cazzo, non riesce neanche a citare un lineare, figura di mezzo vato solo, non lo so io, dico, a un certo punto. E mi faccio spiegare come si fa, come si fa, quello che è. No, dico, si guardi le istruzioni, c'è scritto tutto lì, non si scompongono, sa. No, ma scompongono. Mi avvicino ai 4 watt, non vorrei cazzo programmarmelo io, il discorso è quello, scusa, se tu me lo mandi, non me lo mandi il programmato, non è che devo programmarmelo io, il discorso è quello lì. Mica io abito in Francia, no, abito in Italia, quando ho fatto la richiesta, da Vicenza, l'ho fatta per l'Italia, l'ho fatta per la Spagna, il discorso è quello lì. Sì, tu hai ragione, ma che a me mi avevano dato, ma usciva con 4 watt e mezzo, invece per la Germania era programmato per la Germania, usciva con 1 watt, 1 watt e mezzo, una cosa del genere, mi ricordo. L'ho programmato per l'Italia, cioè aveva anche più canali per l'Italia, per la Germania di meno. I canali come sono? Tutti quanti ci sono, no? Sì, sì, tutti quanti ci sono i canali, quello sì. Non so che dirti allora, può essere anche che sia difettoso, non lo so, però... Non lo so, se... cosa mi dicevo, se vediamo domani mattina, ti mando un messaggio a questi e poi vediamo. Messaggio li telefono direttamente, perché così almeno puoi contrabbattere quello che ti dico col messaggio, ti rispondo e finisci tu. Invece se li telefoni e loro ti dicono ah no, è così l'apparecchio, e poi controbattere, allora me lo sto rimandando indietro, perché a me così non mi va bene. Qua voi avete scritto che usciva con 4 watt essendo omologato, quindi con 4 watt devi uscire, già so poche 4 watt esci con mezzo watt, e appunto per quello. Vabbè, abbiamo 5 minuti di tempo che sto facendo una cosa su Facebook, 2 minuti. Ok, lasciale dopo. Ma vai. Sì, ha detto riserva, tu a chi vuoi, dipende, io sono maschietto, se vuoi una femminuccia non c'è. Non è vero. O poi ho fatto la sorella, poi tanto anche la ragazza di Luca, quindi già ci sono ancora. Perdone, so. Cosa dico? Ho mangiato una dromida dopo pranzo che è fuori dal normale, non capivo se era giorno o notte. No, capire. Ieri stavo pulendo, mi sono alzato presto perché dovevo pulire le gabbie. Le gabbie degli uccelli, quando lo faccio presto perché mi passa il tempo, se no e non combino nulla di altre cose. Sono alzato presto, verso le 7, così, e ho pulito tutte le gabbie. Ha squillato il telefono, sono andato a rispondere, ho lasciato una gabbia con col cancelletto aperto, che mi sono fuggiti 3 uccisi. Allora, ti vuoi fare le risate? Allora mi è venuto in mente, c'è quel coppo da pesca, sono sceso giù e ho guardato, e io ho visto uno che volava da un albero all'altro, ma in alto però. L'ho tenuto d'occhio, come si è calato, mi sono abbassato, poi l'ho beccato, uno l'ho beccato. Poi sono andato a mangiare, a pranzo, ero tutto un manzano guardando, niente da fare. Sono andato a mangiare, a pranzo sono risceso con il cane, e il cane subito ha puntato verso il cancello, ho visto che c'era l'altro canarino, quelli con l'arancione e quello giallo che erano bimbilli. Li ho presi tutti e due, l'altro, quello canterino, quello che cantava un casino, quello non sono riuscito a trovarlo, ma gli ho lasciato la finestra aperta e cantano gli altri, magari arriva, viene da sopra. Lo so, io c'avevo un passero così, lo sai, ho trovato un passerotto piccolo, da quando ero bambino, Bruce, aveva avuto 9 anni, 10 anni, e l'ho portato a casa, e si chiamava Pippo, me lo ricordo ancora. Praticamente mamma gli dava da mangiare, mangiava di tutto, bollicche di pane, tutte queste cose che si danno, no? La verdura, l'abbiamo abituato, mamma voleva che lo liberassi perché ha detto adesso è diventato grande ed è giusto che lui acquisti la libertà, perché lei non odiava vedere gli uccelli in gabbia. Praticamente mi ha detto di liberarlo, sono liberato. La sera me lo sono ritrovato sul davanzale, sul davanzale era d'estate, qui avevamo la finestra aperta, l'ho trovato sul davanzale, se ne è ritornato a casa e ho detto mamma vedi che non se ne vuole andare, si è affezionata a lui. Beh, ogni giorno lo facevamo volare e ritornava sempre, sempre. Un giorno è venuto mio zio dall'America, quello che era a Detroit, è venuto a trovarci e io volevo far vedere come andava la situazione, lui ha detto fly Rubin fly, quando l'ha visto volare. E praticamente non è più tornato, lo sai. E lui mi ha detto sicuramente ha trovato qualche altra femminuccia, si è accoppiato oppure me l'hanno ammazzato. Beh certo. Erano mesi e mesi che faceva lo stesso lavoro, lui la gabbia la usava solo la sera quando rientrava, lo mettevo nella gabbia, si mangiava il mangime, beveva, cosa, e poi si drumia, e domani mattina verso le 8 io lo liberavo di nuovo. Perché ti spiego cosa succede. Normalmente quando fanno le uova, beh, innanzitutto le uova, l'ultimo uovo si riconosce perché rimane più blu delle altre, rimane sul blu quello, invece che bianco rimane sul blu l'ultimo uovo che fanno. Quindi tu dall'ultimo uovo devi contare dai 13 ai 15 giorni per la nascita.